Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, è passato il clou della baraonda natalizia, forse acquistiamo qualche ora, qualche giornata per dedicarci a qualche lettura più tranquilla e quindi vi segnalo qualche libro che vi può aiutare in queste giornate. Innanzitutto vi voglio segnalare di Serena Vitale, una slavista e studiosa di lingua e letteratura russa tra le più celebri in Italia, il libro A Mosca, a Mosca, nel quale ci parla di una sua esperienza russa, anzi di tante sue esperienze russe, anzi di tante sue esperienze sovietiche, perché si parla di soggiorni ancora nella Russia sovietica. Il libro è pubblicato da Mondadori, 240 pagine, costa 19 euro. Serena Vitale arriva a Mosca per la prima volta nel 1967, arriva con una borsa di studio che le permette di alloggiare con tre compagne nel convitto dell'MGU, che era l'università statale di Mosca, tra l'altro allocata nel più grande e vistoso dei sette grattacieli che svettano a Mosca per l'ambizione di Stalin. Da quel momento ci sono state diverse occasioni per Serena Vitale per tornare nell'Unione Sovietica, non più da studente ma ormai da studiosa affermata, ma sempre alle prese con un reticolo burocratico occhiuto e assurdo. E troviamo nel suo libro delle pagine in certi casi addirittura esilaranti, ma in realtà di grande partecipazione alla sofferenza della vita normale dei russi, che rimangono vittime quotidiane di questo clima e di questa eredità, e che incontriamo in una miriade di episodi che spesso hanno protagonisti anche intellettuali famosi. Ma sentiamo l'autrice. Buongiorno a Serena Vitale. Buongiorno a tutti voi. Serena Vitale, il suo libro parte dal 1967 e attraversa circa 40 anni della sua vita e della vita di Mosca. Ecco, non le faccio la domanda più banale che sarebbe come è cambiata Mosca, ma invece la domanda contraria: che cosa c'è di immutabile nella Russia e in particolare a Mosca? Se facciamo il paragone dalla Russia sovietica alla Russia di oggi, questo posso dire perché evidentemente nell'Ottocento non c'ero, ma possiamo allargarci anche a quello, direi assolutamente nulla, perché prevalgono privilegio e sopruso e arbitrio, fino al punto che appunto si dice che a Mosca la corruzione non è più un problema, è ormai un sistema. Cioè certi privilegi, certe storture del sistema purtroppo si sono riaffermate in modo soi-disant capitalistico, ma insomma un capitalismo ancora così molto, molto selvaggio, ecco, chiamiamolo così. E poi a parte Mosca, bisogna distinguere la Russia che è enorme e Mosca che è un piccolo stato nello stato. Ecco, a proposito di capitalismo selvaggio, mi ha colpito l'accenno che lei fa ai super ricchi che si guatano l'un con l'altro, si diffidano ciascuno a vicenda rispetto all'altro. Come spiega? È impressionante che debbano stare tutti insieme, cioè che si aggreghino proprio come branchi, perché sia per questioni di moda, così voglio andare lì perché è di moda, e al tempo stesso però si temano l'un l'altro. Questo penso che sia un fenomeno non rilevabile in paesi, probabilmente perché la Russia nella sua evoluzione non ha conosciuto una fase, come dire, borghese, no? Quindi è passata da quello che poteva essere una monarchia, un'evoluzione in senso borghese, ed è uguale comunque, simile all'Europa, che fu interrotta dalla rivoluzione bolscevica, dal colpo di stato bolscevico, a un'altra cosa che nessuno poteva immaginare come sarebbe andata a finire, e quindi forse mancando questa fase si può immaginare che sia questo il motivo di questa selvaggità. C'è un capitolo divertente dedicato a un florilegio di aneddoti su Stalin. Ecco, il vecchio Stalin quanto è ancora popolare? A un certo punto lei parla del libro del fatto che fino al 78 in Russia si sentiva l'odore della paura. Sì, l'ho sentito a lungo e devo dire che ho combattuto molto con questo. Io ho capito che se mi facevo prendere della paura ero fregata. E d'altra parte ero anche privilegiata, perché io potevo, cioè, comunque con una straniera, benché vivessi ben integrata nella società russa, non potevano fare più di tanto senza scandali internazionali, voglio dire, ecco. Però ho capito che quello, la paura era il modo per tenere sotto il tallone la gente, e a quello mi sono sempre ribellato con varie, non sempre con successo, voglio dire. E ecco, purtroppo sta rinascendo il culto di Stalin in una società assolutamente caotica come è quella di oggi. Si sente, poi ci sono naturalmente provocazioni di scrittori, ma lasciamo perdere l'intelligenza, c'è tutta una fascia di popolazione, senza arrivare, poi si stanno creando gruppi che uniscono l'ideologia nazista, l'ideologia comunista, quella nazi skin, è abbastanza curioso. E comunque Stalin, in un periodo di assoluta mancanza di valori che non siano il denaro, sembra riapparire il fulcro intorno al quale si può ricostruire un'identità, ed è un brutto momento. Invece l'identità la sta perdendo Mosca. Mosca l'ha perduta. Povera Mosca, l'hanno ricostruita talmente tante volte, prima nel 30 con gli anni quinquennali, adesso sembra quotidianamente un albero di Natale, tutta luminaria e tutto così. E non so, per esempio il fatto che venga da un giorno all'altro con una telefonata destituito un sindaco, io mi chiedo in quale società suadisante democratica possa succedere questo. Insomma, ci vorrebbero delle elezioni, ci vorrebbero delle cose. E Mosca comunque resta un esempio che non vale per tutta la Russia, meno San Pietroburgo, dove pure funzionano gli stessi meccanismi di arricchimento selvaggio dovuto alla, purtroppo devo dire, a quello che ha fatto Gorbaciov, insomma, a questa, non aveva forse altri mezzi. Ma insomma, Gorbaciov non è molto amato in Russia, perché non ha preparato con delle fasi di passaggio. Quindi la gente da un giorno all'altro si è trovata in mano con degli sheik che non valevano niente. Una società in cui non esisteva la proprietà privata, un voucher o uno sheik non aveva un assegno, non aveva nessun valore. E quindi lo vendevano per una bottiglia di vodka, e così si sono arricchiti i più dritti, che per lo più poi facevano parte nella maggioranza della nomenclatura sovietica. E quindi tutto si ripete, purtroppo. Va bene, allora aspettiamo il prossimo libro con i prossimi commenti. Grazie. Sperando che siano migliori, più ottimistici. Grazie. Grazie. E proprio Serena Vitale ha tradotto per Salani Il Grande Inquisitore, il celebre brano dei fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij, che è pubblicato in questo caso come un'opera a parte. Sono 94 pagine, 10 euro, e vede il commento di Gherardo Colombo. Abbiamo accennato a Stalin, e allora vi segnalo un libro di Simon Sebag Montefiore, Il Giovane Stalin, pubblicato da Longanesi e tradotto da Giovanni Ferrara degli Uberti, 554 pagine, 29 euro. Questa è una bellissima biografia, anche molto considerata dalla stampa internazionale, su una giovinezza che l'autore definisce drammatica, avventurosa, eccezionale, e che finora era stata poco visitata dagli storici perché non c'era grande materiale d'archivio sul quale lavorare. Adesso gli archivi si stanno aprendo ed emergono anni in cui Stalin fu, scrive ancora l'autore, rivoluzionario, bandito, poeta, seminarista, marito e uomo dai molti amori che si lascia disinvoltamente alle spalle, donne, figli illegittimi. Insomma, sono anni di giovinezza non meno affascinanti di quelli di Lenin e di Trotsky, qui magnificamente ricostruiti e illustrati anche con una serie di immagini. Restiamo in Russia e concludiamo l'anno del centenario della morte di Tolstoj con un libro che affronta uno degli aspetti più affascinanti del vecchio scrittore, ossia il suo pacifismo, del quale scrive Bruno Milone in Tolstoj e il rifiuto della violenza, pubblicato da Servizio, un 174 pagine, 15 euro. Per Tolstoj il rifiuto della violenza passa dall'accettazione della religione, alla quale egli si riaccostò con un'interpretazione tormentata e complessa dopo gli anni 70 dell'Ottocento. Attraverso la coscienza religiosa, scrive Milone, la gente è portata a rifiutare qualsiasi violenza nei confronti del prossimo. E l'autore ripercorre quindi l'evoluzione del pensiero del grande scrittore, sottolineando come in fondo il fallimento della sua intuizione fu determinata dalla contrapposizione tra socialisti e cristiani che, scrive ancora l'autore, andavano organizzandosi nei partiti ideologici di massa e non vollero, non seppero costituire un fronte unitario che sapesse mediare tra religione e politica. Non solo, ci fu anche aperta opposizione perché, scrive ancora l'autore, ci fu anche chi accusò lo scrittore di allontanare il proletariato dalla rivoluzione sociale con la sua idea di rifiuto di ogni violenza e di resistenza passiva. E così l'ideale di Tolstoi purtroppo rimase appunto soltanto un ideale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Quest'anno abbiamo ricordato un altro anniversario di un grande poeta, cioè il 35esimo della morte di Pierpaolo Pasolini. E allora in questa occasione vi voglio segnalare un libro intenso e struggente della madre, Susanna Colussi Pasolini, che morì nel 1981. Il libro si intitola Il film dei miei ricordi, è pubblicato da Archinto. 520 pagine, 18 euro. Il libro è ricavato dalle carte che la donna lasciò alla sua morte. Sono carte raccolte in 21 quaderni nei quali la signora Colussi scrisse, ispirandosi alle cronache riferitele dalla nonna, la storia della famiglia a partire dagli antenati che avevano partecipato alla campagna napoleonica contro la Russia. E pare che Susanna Colussi abbia scritto queste carte in età matura fino agli anni 70. Tra l'altro il poeta stesso, il figlio Pierpaolo, aveva attinto al materiale familiare che la madre gli raccontava e ne aveva ricavato anche alcune poesie, e anzi in questo volume ci sono 4 poesie in friulano dello scrittore, il quale però pare che non sapesse di queste carte scritte dalla madre. Questo dunque non è un libro sul figlio poeta, ma certamente è un libro molto utile per capire molte fonti di ispirazione e soprattutto l'ambiente familiare e non solo, nel quale si rafforzò la cultura di Pierpaolo Pasolini. Sentiamo per esempio queste righe, appunto sull'ambiente friulano ai tempi del nonno di Pasolini. Ecco l'élite del mio paese. Questo fiorfiore era formato, salvo rarissime eccezioni, da famiglie venute da fuori. Circa una trentina d'anni addietro, quando ancora le strade ferrate non solcavano la campagna della pianura friulana, il villaggio comprendeva solamente le famiglie originarie di lì, dei discendenti di coloro che per secoli avevano concimato quei campi col loro sudore e con le loro ossa. In queste famiglie si parlava il friulano. Ma qualcuna di esse, dopo essersi arricchite e aver lasciato il lavoro della terra agli affittuari o qualche altra datasi al commercio o alla piccola industria, abbandonarono l'antico linguaggio e si misero a parlare il veneto, ritenuto più elevato o meno rustico, ad imitazione delle nuove famiglie venute da fuori. E ancora Archinto ripropone di Pasolini un breve poema autobiografico, Poeta delle ceneri, 76 pagine, 11,50 euro, curato da Pietro Gelli. Questi versi furono pensati nel 1966 per presentarsi al pubblico americano in un'intervista che gli era stata chiesta, e qui Pierpaolo Pasolini si manifesta con grande sincerità. Descrive, fa leva su alcuni momenti importanti della sua vita, spiega per esempio quali furono le ragioni che lo spinsero a farsi poeta a Roma negli anni 50. Scrive così: mi pareva che l'Italia, la sua descrizione e il suo destino dipendesse da quello che io ne scrivevo. In quei versi intrisi di realtà immediata, non più nostalgica, quasi l'avessi guadagnata col mio sudore. Su Pasolini ricordo anche Pasolini in salsa piccante di Marco Belpoliti, Guanda, 142 pagine, 12,50 euro, un libro che ha anche 8 foto del grande fotografo Ugo Mulas. Qui si parte dalla constatazione della perdurante scomodità di un personaggio come Pasolini, che riuscì a farsi odiare nello stesso tempo dalla destra ben pensante e dalla sinistra bacchettona, la quale ultima però poi lo trasformò in una specie di santino. E qui Belpoliti raccoglie, dicevo, alcuni suoi scritti per lei, quella che chiama l'estetica del poeta in rapporto alla sua omosessualità. Il titolo del libro si rifà all'ultimo saggio, che riprende a sua volta una scritta che compare nel film Uccellacci e Uccellini, e cioè i maestri sono fatti per essere mangiati in salsa piccante, nel quale, affrontando la recente vicenda del capitolo rubato del libro Petrolio, che avrebbe dovuto essere esibito all'ultima edizione della mostra del libro antico, Belpoliti ritorna sulla vicenda della morte di Pasolini per concludere che non solo la sua particolare omosessualità oggi viene rimossa, a sinistra come a destra, ma che la sua lezione poetica e intellettuale è disattesa dai suoi seguaci e difensori. Il delitto Pasolini, scrive Belpoliti, non è un delitto politico perché operato per far tacere uno che sapeva la verità su un attentato o una strage, ma perché è stato ucciso un poeta che diceva verità scomode usando le parole e le immagini. Siamo nel pieno dell'inverno e allora per affrontare il gelo leggiamo il libro di Bill Strieber intitolato appunto Gelo, avventure nei luoghi più freddi del mondo. È pubblicato da EDT, 312 pagine, 20 euro ed è tradotto da Anna Lovisolo. Il clima, dicono, cambia, ma il freddo resta. Dove vive l'autore addirittura si possono raggiungere punte sotto i 40 gradi. Partendo da luglio abbiamo un capitolo per ogni mese dell'anno con esperienze di freddo estremo e con la descrizione di come ci si possa adattare a questo clima. Il libro non è un trattato scientifico, è scritto in forma narrativa che mischia divulgazione con avventure di viaggio personali nelle quali l'autore sperimenta appunto le condizioni estreme al quale il freddo può dare luogo. Ma si parla anche di avventure che possono capitare a tutti, per esempio la caduta del ghiaccio, le tempeste di neve, la grandine. Si parla anche di cambiamento del clima e del negazionismo che lo mette in discussione o che ne mette in discussione l'origine antropica, cioè la responsabilità del nostro comportamento. Ma sentiamo cosa scrive l'autore sulla descrizione di un fenomeno molto particolare. Grazie alla rivoluzione industriale, grazie al carbone, al petrolio e al gas naturale, grazie a più di 600 milioni di auto, camion e pullman, la primavera sul pianeta Terra sta sfumando in un'estate artificiale. 10.000 anni fa è arrivata la primavera e il più recente e intenso periodo di estesa glaciazione dell'era glaciale del Pleistocene ha iniziato ad attenuarsi, ma non al punto da sciogliere il ghiaccio polare. Ora forse sta per arrivare la vera fine dell'era glaciale del Pleistocene, un'estate in piena regola. La buona notizia è questa, il pianeta non si sta riscaldando uniformemente. Quando le correnti oceaniche mutano direzione, l'Europa rischia di diventare piacevolmente gelida. L'interno dell'Antartide, circondato da venti vorticosi che si ritiene siano causati in parte dal buco nello strato di ozono, si è raffreddato. Ci sarà ancora modo di usare il Tinsulate, il Gore-Tex, l'Holofil e il Qualofil. Ci sarà ancora occasione di indossare un doppio strato di pelle di caribù. E anche di cambiamento climatico si parla nel libro di Andrea Kerbacher, Bufale apocalittiche, le catastrofi annunciate e mai avvenute del terzo millennio, pubblicato da Ponte alle Grazie, 136 pagine, 13 euro. Questa è una spassosa e documentata rassegna delle paure e dei terrori che si sono propagati negli anni scorsi con una sicumera che descriveva il mondo regolarmente alle soglie della distruzione, dal Millennium Bug fino alla influenza suina dello scorso anno. E poi tanti altri casi, tutti casi di drammatizzazione inutili che hanno terrorizzato il mondo senza alcun fondamento ma con un robusto spesso motivo economico. Per esempio scrive l'autore che alle spalle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità operano i giganti del mondo farmaceutico, multinazionali ricche e potenti che nei casi delle pandemie possono vendere milioni di prodotti garantendosi fatturati e margini. E poi c'è la responsabilità dei media che Kerbacher così riassume. La prassi è consolidata. Catturare l'attenzione attraverso impostazioni gridate che sottolineano sempre il maggior rischio possibile ed eliminano sistematicamente qualsiasi elemento di dubbio. Quindi titoli con abuso di parole come allarme, panico, ecatombe, apocalisse, terrore e niente condizionali, punti di domanda o aggettivi che potrebbero stemperare l'attenzione. Piuttosto virgolettati, che enfatizzano la parte più pericolosa, spesso estrapolata da contesti molto più articolati. Un esempio per tutti nel caso della mucca pazza. Quando il morbo pare estendersi all'Europa continentale, il New York Times intitola «La mucca pazza terrorizza l'Europa». In realtà, a leggere l'articolo, vengono riportati fenomeni assolutamente minori, che riguardano pochi paesi dove non ci sono state più di 10 vittime in tutto. Ma è quasi superfluo dire che il testo viene letto da una scarsissima percentuale di lettori, mentre il titolo prende tutti, indistintamente. Il confettino. Chiudiamo il mese e l'anno con un titolo quasi obbligato, Poesie di dicembre di Vivian Lamarck, con le immagini di Alessandro Sanne, pubblicato da M Edizioni, 14,90 euro. E vi leggo come augurio e come saluto i primi versi dell'ultima poesia di questa raccolta, fine anno. Un anno è finito, chi ci legge è cresciuto, chi vi scrive è invecchiato, ma soltanto un pochino. Sento i botti di Capodanno e tutti che gridano buon anno, buon anno. Con queste parole vi saluto, vi auguro buon anno, ringrazio Margherita in redazione, Peter Bescapè in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buon anno a tutti e appuntamento domenica prossima.